I nomi delle cose, lo spazio di riflessione della coordinamenta femminista e lesbica. Ciao a tutte, ciao a tutti. Vi diamo il benvenuto nel percorso della coordinamenta verso l'8 marzo. Pensiamo che la lotta femminista possa portare un contributo molto importante alla liberazione di tutte e di tutti, ma non certamente sgomitando per posti di potere, riconoscimenti istituzionali, oppure attraverso lotte categoriali o imponendo nuovi stigma e divieti. Assolutamente no. Bensì, partendo da noi, dalla nostra esperienza di oppressione, dovremmo cercare di fornire strumenti per smascherare i meccanismi con cui si muove questo sistema, perché le modalità con cui il neoliberismo ha aggredito il sociale sono molto simili a quelle con cui il patriarcato ci ha asservite. Allora, partendo da questa considerazione e da queste riflessioni che comunque ci accompagnano da diverso tempo, abbiamo aperto un percorso verso l'8 marzo fatto di cartelle. Che cosa significa cartella? Questa di oggi è la prima cartella e l'abbiamo chiamata cartella perché ogni puntata è una puntata di riflessione, ma non è solo una riflessione a voce alta, ma comprende anche scritti, materiali, locandine, e ogni cartella ha un titolo diverso. Questa di oggi è intitolata Il merito e la partecipazione emotiva. Allora, partiamo proprio sempre da noi. Riflettiamo un attimo che cosa vuol dire meritarsi qualche cosa. Beh, vuol dire fare il possibile per compiacere chi ci fa una richiesta, vuol dire aver dato o dare il meglio di noi stesse per assolvere un compito, vuol dire riconoscere gerarchicamente che chi ci fa questa richiesta deve essere soddisfatto. Vuol dire poi dipendere dal giudizio che viene dato sul nostro operato. Vuol dire riconoscere la giustezza del ruolo che ci viene assegnato. E allora che cosa per noi donne nel lungo percorso della nostra oppressione? Che cosa ha voluto sempre dire questo, tutto questo? Ha voluto dire riconoscere la propria subalternità nella scala gerarchica patriarcale e la dipendenza dal giudizio e dall'approvazione dell'uomo. Ha voluto dire cercare sempre di essere adeguate a questa approvazione e quindi fare il possibile. Accettare rimproveri e rimbrotti. Mi ricordo io una conoscente che veniva spesso a far visita alle mie zie, che era solita dire al marito quando le capitava qualcosa, succedeva qualche cosa, lei diceva sempre: ne ho combinata una delle mie, tanto per darvi l'idea dell'approccio alla vita, no? E quindi vuol dire riconoscersi eternamente infantili. Poi ne derivano delle cose importantissime, no? Cioè la continua sensazione di della propria inadeguatezza, una sensazione e allo stesso tempo un'accettazione, una presa d'atto della propria inadeguatezza. Noi abbiamo sempre dovuto dimostrare di essere una buona moglie, una buona madre, anzi adesso abbiamo dovuto centuplicare gli sforzi da quando siamo entrate nel mondo del lavoro salariato, no? Con l'emancipazionismo. Ora dobbiamo saper conciliare lavoro in famiglia e lavoro all'esterno, e la donna realizzata ottimale è quella che riesce a fare questo e su cui viene dato un giudizio positivo. E a questo punto passo la parola a Noemi, ci risentiamo fra poco. Never win first place. I don't support the team. I can't take direction, and my socks are never clean. Teachers dated me. My parents hated me. I was always in a fight. Mirror. I can't take the purse. Quindi la prima cartella che abbiamo deciso di condividere con voi è quella di siamo tutte inadeguate. Ma siamo davvero tutte inadeguate? Forse no. O meglio, lo siamo tutte perché siamo tutte accusate di esserlo. È come avere una continua voce di sottofondo, a volte in realtà urla pure contro di noi, che ci dice che andiamo bene, che non andiamo bene qualsiasi cosa noi diciamo, facciamo o addirittura pensiamo. Ma perché è importante ribadire questo? Perché per noi della coordinamenta è importante mettere un po' i puntini di nuovo su queste cose? Il neoliberismo, lo abbiamo ribadito più volte, ci attacca non solo sul piano economico, perché sarebbe già abbastanza facile affrontare quello, sarebbe un po' circoscritto. Il punto è proprio che è entrato nelle nostre teste e ci giudica moralmente. Giudica i nostri gesti, giudica i nostri pensieri, un po' in puro stile, utilizzando uno stile puramente vittoriano. Questo l'abbiamo già spiegato e detto più volte, che il neoliberismo ha ripreso quelle che erano le caratteristiche della borghesia vittoriana e le ha ampliate fondamentalmente in maniera transnazionale a tutte noi. Se sei madre, quindi devi stare, sei certa che qualsiasi cosa farai, penserai, è sbagliata. Addirittura in alcuni contesti, come quello delle compagne, viene confuso il rifiuto del lavoro di riproduzione con quello di madre, con quello di essere madre, quello di scegliere di essere madre, quindi vieni giudicata pure dai compagni. Se non vuoi essere madre, altrettanto, perché non vuoi essere madre, ma perché, ma la maternità, ma ti pare. Addirittura quindi se tu per caso decidi salvarti la vita, magari perché hai un problema all'utero, vieni accusata perché non pensi abbastanza alla maternità. Se studi troppo sei una secchiona, se non studi per niente sei una perditempo, oppure sei una troppo facile, oppure sei una troppo gelida. Come ti muovi, sbagli. Ovviamente tutto questo viene sempre infarcito e infarinato con parole come la meritocrazia con descrizioni, no? Buoniste. Uso gli stereotipi perché è più semplice farmi capire, cioè non penso che il mondo sia in bianco e nero, però è quello che ci fanno credere. Nel nostro mondo, quindi, la morale socialdemocratica ha costruito un impero pieno di solitudine, dove spesso il senso di inadeguatezza si è trasformato in malattia addirittura. Depressioni, bipolarismi, non so, questa è in realtà una storia antica, ma infatti già nelle sue prime manifestazioni vittoriane la donna era appunto curata, no, per isterismo, per i nervi deboli, ovviamente lo era la donna borghese ed era l'inizio, no, di quello che stiamo vivendo adesso. Però appunto questa cosa di sentirsi malati di qualcosa che non si può toccare, non ha forma, è invadente, è soffocante, fa parte proprio del fatto che questa società neoliberista, ultra neoliberista, ha invaso ogni nostro secondo ogni nostro spazio. E quindi l'unica cosa che potremmo fare è decidere di sganciarci da questa società. Il problema è che però gliel'abbiamo permesso nei decenni, abbiamo permesso alla morale della classe borghese di impossessarsi delle nostre vite. Glielo abbiamo permesso facendo passare l'emancipazionismo come femminismo, glielo abbiamo permesso confondendo la violenza con la non violenza, glielo abbiamo permesso confondendo lo sfruttamento e l'oppressione con il comportarsi bene. E quindi questo malfunzionamento e addirittura in realtà abbiamo confuso, o hanno confuso, insomma, c'è chi non lo ha fatto, abbiamo confuso il principio capitalista della scalata dello scalino sociale per appunto la possibilità di ambire ad avere appunto, no, una vita migliore, come quella dei borghesi. La scala sociale non ha mai funzionato perché non era il suo scopo funzionare, anzi, probabilmente era semplicemente l'illusione, cioè darci, costruire una coscienza che si illudesse di poter essere tali e quali ai propri oppressori, perché loro vivono bene, perché loro vivono nell'agiatezza. Questo ovviamente poi si è ingrandito e ha preso una forma molto più potente di quella appunto. Ha travalicato il piano economico, ha travalicato quello che riguarda semplicemente lo stile di vita, è diventato un tutto. E quindi noi abbiamo confuso il malfunzionamento di questa scala sociale e per compensazione abbiamo accettato i premi di consolazione che rimanevano. Per cui siamo diventati noi stessi oppressori di noi stessi. Scusate il gioco di parole, però non mi viene meglio l'espressione. E ovviamente non lo facciamo solo con noi stessi, perché noi continuamente ci giudichiamo pensando ai criteri con cui gli altri ci giudicano. Ma facciamo altrettanto, e quindi ecco là che l'illegalità diventa un must have di tutti. Quindi non ci rendiamo conto che il premio di consolazione che abbiamo accettato è in realtà la gabbia in cui ci siamo chiusi. Abbiamo quindi naturalizzato questi comportamenti che non sono per niente, non dovrebbero essere nostri. Vorremmo ambire a toccare un cielo che in realtà è il ribaltamento di un profondo buco nero. È paradossale il fatto che non riusciamo nemmeno più ad immaginare una vita migliore, cioè, ci hanno rubato l'immaginazione e noi abbiamo smesso pure di sognare, ci hanno tolto i desideri, e forse è proprio da là che bisogna ricominciare a desiderare, desiderare oltre ogni limite, smettendola di essere recintati e recintate all'interno di quello che il sistema controlla. Sentirci inadeguate è proprio è la catena che ci hanno messo al collo, ai piedi, è costruita proprio su misura per noi, ognuno ha la sua ovviamente, perché ognuno ha la sua particolarità, ma in generale è uguale per tutti, è un cappio al collo che stringe, è un po' come quei collari per i cani, che più tiri e più ti strozzi. Quindi se stai fermo e rispetti, no, il limite che ti viene imposto, riesci a respirare. È appunto la violenza del bene, la violenza del padrone che ti strattona perché devi camminare a un certo passo, perché non devi infastidire l'altro passante, perché non devi annusare il culo dell'altro cane. È un po' come la mamma, no, che ti dice che devi stare seduta composta, la maestra che ti dice che non devi parlare con quella persona perché è un po' così. Sono tutti questi personaggi, questi ruoli costruiti dove ognuno ti dice come ti devi comportare, ognuno ti dice cosa è meglio per te. Se fai questo, allora avrai una specie di premio di consolazione. E quindi questo premio di consolazione È in realtà una fregatura allucinante, perché in realtà non comporta assolutamente quella famosa, no, scalata per cui poi arrivi alla vetta e sei pure tu un borghese. Certo, qualcuno ci sarà anche riuscito, è un po' la favola dell'American Dream, no? Però diciamo che non è che funzioni proprio tanto bene. Ah, vi volevo leggere un pezzo che è pertratto dalla coscienza illusoria di sé, di Elisabetta Tegil. Che dice: le situazioni di dipendenza economica, psicologica, fisica sarebbero dovute alla scarsa consapevolezza personale. Quindi appunto non è colpa tua, no? Se non riesci a migliorare. Il neoliberismo addossa sempre alla singola o al singolo la ragione della propria inadeguatezza e illibertà, definita nell'incapacità di realizzarsi e di proporsi in questa società, che sarebbe aperta invece a qualsiasi realizzazione personale. È la teoria della colpevolizzazione. La società viene scaricata da qualsiasi responsabilità e anzi viene danneggiata da individui che rappresentano una zavorra sociale, quindi è colpa tua. Cioè sei tu che sei inadeguata e diventi colpevole. Colpevolezza però poi parleremo meglio nella seconda cartella, però mi piaceva un attimo unire le due cose e trovare un nesso, no, tra l'inadeguatezza e poi quello che è il senso di colpa. Perché però come femminista l'inadeguatezza agisce a doppia mandata su di noi? Agisce a doppia mandata perché veniamo descritte sempre come l'appendice di qualcun altro, perché veniamo definite in base ai nostri atteggiamenti sessuali, ai nostri vestiti, ai nostri comportamenti, veniamo attaccate e denigrate personalmente nelle nostre scelte, in modo tale che poi le nostre scelte rivoluzionarie, le nostre scelte politiche siano sminuite dal nostro comportamento. È qui che hanno attaccato. E il problema è che dobbiamo noi per prime smontare questa costruzione, questo attacco, questo sistema in cui si depotenzia la nostra azione politica, perché viene ridotta a un comportamento fuori dal recinto. In questo ci ritrovo molto l'emancipazione che... Di cui uno è contenta, ma non è che il velo che sta soprattutto, sotto c'è altro, c'è da lottare veramente per volere la luna. L'inadeguatezza quindi è il, come dicevamo, è lo strumento che serve a... È lo strumento che serve a farci digerire meglio il passaggio successivo, che è quello in cui il buonismo, cioè la violenza del bene, in cui la società neoliberista si prende tutto. L'unico modo è appunto sottrarci a tutto questo e aiutare a sottrarsi da questo. Dobbiamo un po' recuperare l'autonomia dei nostri desideri. La verità mi fa male, lo so. La verità mi fa male, lo so. Nessuno mi può giudicare, nemmeno tu. La verità mi fa male, lo so. Lo so che ho sbagliato una volta e non sbaglio più. La verità mi fa male, lo so. Dovresti pensare a me e stare più attento a te. C'è già tanta gente che ce l'ha su con me. Chi lo sa perché? Ognuno ha diritto di vivere come può. La verità mi fa male, lo so. Per questo una cosa mi piace, quell'altra no. La verità mi fa male, lo so. Se sono tornata a la meritocrazia è uno dei valori fondanti del neoliberismo, infatti. E tutto questo di cui ha parlato Noemi, abbiamo parlato finora, è stato trasferito a tutto il mondo del lavoro, anzi a tutto il sociale. Il merito e la meritocrazia, che sono appunto elementi fondanti del neoliberismo, non sono altro che dispositivi disciplinanti. E questi dispositivi disciplinanti hanno estremo bisogno della collaborazione dei soggetti da disciplinare. Questo che vi leggiamo è un pezzetto che abbiamo scritto tempo fa, sempre sul meccanismo della meritocrazia. Introiettando la scala di valori dominante, mi convinco di essere meritevole o meno in base ai criteri decisi da altri, o meglio dal sistema produttivo o riproduttivo, e precipito nel meccanismo dell'autosorveglianza. La vergogna e il senso di colpa mi inchiodano in questa posizione subalterna, oppressa, subordinata, rendendomi non solo carceriera e carceriere di me stessa e di me stesso, ma anche cane da guardia dei rapporti di subordinazione. Tant'è vero che il merito e la meritocrazia non sono altro che la capacità di servire, quindi di servire e di essere adeguati alla scala di valori dominante. E allora proprio noi che del principio e del cosiddetto valore meritocratico siamo state e siamo ancora le principali schiave, vittime, obiettivi e lo siamo state per secoli, proprio noi dobbiamo smascherare questo meccanismo e potremmo essere utili a smascherare questo meccanismo come elemento fondante del neoliberismo. E vi lasciamo sempre con un altro pezzetto, questa volta chiamiamolo in positivo, che è un augurio e un'apertura alla prossima cartella, che è sulla colpevolizzazione. Gli anni del femminismo sono stati gli anni del desiderio. Di fronte alla miseria offerta dal trascinamento, dal femminista al femminile, l'accento sul femminismo e sulla nostra liberazione si presenta come altro, come una scommessa, un impegno oltre il presente. Momento attuale che pretende di annullare il conflitto e la ribellione e di piegare tutte e tutte rassegnate e rassegnate al dominio della merce. Ma proprio da questa situazione nasce la necessità, anche solo reattiva, di dire no all'angoscia mortifera che accompagna la vita. È necessario spezzare la normalità in cui ci vogliono imbrigliare, cercando, trovando, creando fessure, crepe, spiragli e squarci che si aprono ogni qualvolta che c'è della normalità una sospensione. Nei momenti in cui si rompe il meccanismo di assuefazione per motivi che possono essere occasionali o provocati, che possono avvenire nella vita quotidiana o nelle lotte, si aprono scenari e immaginari oltre la ragionevolezza, oltre la possibilità. E quindi la nostra speranza e il nostro obiettivo è di andare oltre la ragionevolezza, oltre la possibilità, perché soltanto volendo e cercando aprendo squarci in questa normalità mortifera, noi possiamo sperare di uscire da questa società. Ciao, alla prossima cartella.